Un'altra settimana ricca di appuntamenti dedicati al centenario della morte di San Pio X, gli appuntamenti organizzati dal Comitato Diocesano di Treviso. Dopo l'appuntamento musicale che è ogni sabato di questo periodo di Quaresima a Salzano, sabato 22, sul tema della polifonia con il coro femminile Magnificat di Santa Maria di Sala, il coro parrocchiale di Stigliano con direttore Roberta Bortolozzo, all'organo Giovanni Feltrin. A Salzano questa domenica 23 viene ospitato il pellegrinaggio per i vicariati di Mirano, Noale e Mogliano Veneto. Come già nelle due domeniche precedenti, il programma prevede l'inizio alle 15:30 con la preghiera dei Vespri presieduta dal parroco, a seguire la predicazione di Monsignor Stefano Chioatto, la preghiera a San Pio X con il bacio del la reliquia, a seguire la benedizione e la visita alle memorie di San Pio X. Nel caso di Salzano sarà il museo attiguo alla chiesa. E proprio a Salzano, dove Pio X fu parroco per 9 anni, ci sono moltissime iniziative organizzate dalla parrocchia, dall'amministrazione comunale. Pio X fu lì dal 1867 al 1875 ed è stato ed è tuttora l'unico parroco al mondo che è diventato pontefice. Ci saranno una serie di appuntamenti anche nella prossima primavera, il 31 maggio in Villa Iacura, la mostra documentaria sulla vita di Giuseppe Sarto a cura di Angelo Pavanello, e poi dal 6 giugno al 3 luglio, sempre nella cornice della Filanda della Villa Iacura, 5 serate di alto spessore culturale, spirituale e politico, in cui la carità, il lavoro pastorale e civile di Sarto saranno un patrimonio da approfondire per riflettere su cosa significhi essere cittadini e cristiani oggi. Ne parleranno studiosi, appassionati e noti della figura di San Pio X, Quirino Bortolato, Giampaolo Romanato e poi anche Enzo Pace, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova, Rosi Bindi, attualmente presidente della Commissione parlamentare antimafia, Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, e Don Flavio Dalla Vecchia, docente di Sacra Scrittura all'Università Cattolica di Milano. Molti altri appuntamenti poi fino ad agosto, quando il giorno 20 cadrà l'esatto anniversario della morte di San Pio X. C'è anche un'occasione che è stata confermata in questi giorni dal Pontefice, da Papa Francesco. In occasione di questo centenario è giunta una lettera della Penitenzieria Apostolica che su mandato di Papa Francesco esprime la sua paterna benevolenza ed elargisce l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che visitino le chiese di San Pio X, quindi Riese, Tombolo, Salzano, la cattedrale di Treviso, come pellegrini, e lì partecipino con devozione a una funzione o almeno si trattengano per un congruo tempo in preghiera, da concludersi alle solite condizioni, quindi con un Padre Nostro, un Credo, una preghiera alla Madonna e a San Pio X. I fedeli che saranno impediti dalla vecchiaia o da una malattia potranno lucrare l'indulgenza col pentimento di tutti i peccati e con l'intenzione di assolvere le 3 condizioni davanti a un'immagine di San Pio X, purché si uniscano spiritualmente a uno dei pellegrinaggi giubilari, offrendo a Dio sofferenze e preghiere. I canonici e il clero della cattedrale di Treviso, i parroci di Riese, Tombolo e Salzano sono invitati a mettersi a disposizione dei penitenti e a portare la comunione ai malati. La validità del decreto si estende per il periodo giubilare dei pellegrinaggi. In occasione del 20 agosto, quando ci sarà la celebrazione, la Santa Messa solenne al Santuario delle Cendrole, il presidente della celebrazione potrà impartire ai fedeli la benedizione papale con annessa indulgenza plenaria. Chi non potrà essere presente potrà seguire la celebrazione alla TV o alla radio con i mezzi di comunicazione, potrà beneficiarne allo stesso modo. Dunque, indulgenza plenaria in occasione dei pellegrinaggi nei luoghi di San Pio X. Ricordiamo appunto i prossimi appuntamenti: questa domenica 23 a Salzano e poi domenica 30 nella chiesa cattedrale di Treviso, e poi il giorno dell'anniversario, il 20 di agosto. Per il centenario di San Pio X c'è anche un ciclo di incontri sul tema lavoro e impresa, riflessioni ed esperienze sull'economia per il bene comune. E dopo il primo, questo venerdì 21 marzo, in Camera di Commercio alle 17.30, su Pio X, il movimento cooperativo e sindacale nel Veneto. Gli appuntamenti successivi sono il 9 di aprile all'Auditorium Santa Croce di Treviso, su Comunità di Lavoro e Impresa. Il 23 maggio, come nasce l'economia di territorio. Il 24 maggio, c'era una volta la città del lavoro, parlando del distretto industriale a Montebelluna, e poi il ruolo sociale del lavoro a Conegliano il 6 giugno, la responsabilità sociale dell'impresa a Oderzo il 26 giugno, la partecipazione del lavoratore nella gestione dell'impresa il 10 luglio a Castelfranco Veneto. Molti appuntamenti dunque in programma, sempre di più in questo centenario di San Pio X. Ricordiamo anche il sito ufficiale centenariopiox.it.